8. New York, 19 dicembre 1776. Madre carissima, colgo l'occasione di scriverti, grazie al signor Lawrence, l'armaiolo di Albany, che lascia domani New York e si stabilisce a Oswego per non dover più vendere i suoi fucili ai nemici della corona. È questa la terza lettera che mi riesce di spedirti. Spero tu abbia ricevuto le altre, così da poterti risparmiare le notizie che già contenevano. Al mio sbarco ho saputo che il signor Lacroix era partito da poco per raggiungere Canaglio Harie, dove spero sia arrivato e ti abbia descritto ogni cosa riguardo al nostro soggiorno nella città di Londra. Per parte mia ho saputo che Sir John è stato costretto a lasciare Johnson Hall nelle mani dei bostoniani, che ora cercano zio Joseph e minacciano di portarti ad Albany per costringerlo a consegnarsi. Questi avvenimenti mi riempiono il cuore di rabbia, e se non fosse per i miei doveri di soldato, farei qualunque cosa per essere al tuo fianco e difendere i miei fratelli, le nostre proprietà e la tomba di mio padre. Al momento non faccio nulla di interessante o utile, e sarei ben contento se l'esercito di Sua Maestà si conformasse alla consuetudine della nostra gente, cioè combattere una battaglia e poi lasciare che i vivi ritornino alle loro famiglie, alla caccia e ai commerci. Quando mi ricevette, Re Giorgio si augurò di incontrarmi di nuovo con i gradi di generale, e questo suo auspicio ha contribuito molto alla decisione di arruolarmi. Se un giorno il Signore volesse concedermi quel privilegio, sarei di certo il primo generale Mohawk a comandare le truppe del regno, e credo che mio padre sarebbe fiero di suo figlio, lui che fu irlandese di nascita e capo guerriero delle Sei Nazioni. Quando sogno quel giorno, immagino di diffondere tra i miei sottoposti alcune abitudini guerriere del nostro popolo, così che non sia solo il numero dei fucili a fare la differenza tra due schieramenti, ma anche il coraggio e l'abilità di chi li imbraccia. Ho partecipato alla mia prima battaglia combattendo con le truppe indiane, a Fort St. John in Canada e poi di nuovo vicino a Montreal. Ora ne ho sostenute altre due, con l'uniforme rossa e la bandiera in mano, a New York e White Plains. Tutte si sono concluse con la nostra vittoria, ma mentre le prime saprei raccontartele un attimo dopo l'altro e ricordare in ogni gesto le imprese dei guerrieri, delle ultime posso dirti solo: ho tenuta alta la bandiera e dei miei compagni so che hanno sparato e niente più. A un certo punto mi hanno ordinato di rientrare al campo e se qualcuno non mi avesse detto che i nemici erano in fuga, potrei ancora interrogarmi sull'esito della battaglia. Ora come ora non so nemmeno quale sia la nostra prossima destinazione. Dicono che siamo in procinto di trasferirci, forse a Filadelfia, ma certo non sarà un concilio a stabilirlo e nessuno di noi soldati potrà ascoltare i generali mentre discutono il da farsi e prendono la decisione. Per questo non so dirti dove scrivermi, se mai ti sarà possibile, ma cercherò di farlo io, quanto prima, poiché sono in grande apprensione e sarei molto felice di avere vostre nuove al più presto. Non ho il tempo per aggiungere altro, ma rimango sempre il tuo affezionatissimo figlio, Peter Johnson. Ti prego di ricordare il mio affetto a Betsy, a tutti i miei fratelli e sorelle, e di salutare per me gli amici di Canaglio Harie. Che il Natale vi porti serenità.